Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. A un'altra Roma di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio. Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi. Crediamo a ciò che appare. Ignoriamo che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo zodiaco. Giordano Bruno, che il 17 febbraio del 1600 moriva come libero pensatore, condannato per eresia dal Tribunale Centrale del Sant'Uffizio, arso vivo a Campo dei Fiori con la lingua serrata perché non parlasse. A lui dedichiamo questo piccolo omaggio a un'altra Roma. Un piccolo omaggio perché è nato davvero per caso, poi ha incontrato la guida alla Roma ribelle, e però è nato per caso, è nato un po' così alla ricerca di quest'altra Roma, che poi è il primo posto in cui io l'ho ricercata, è l'812 della Garbatella, a casa di nonno Franco. Lì ho trovato un po' di pensieri sparsi, di foglietti, ce n'era uno incorniciato addirittura in cucina. I 10 comandamenti dei Romani. Numero 1. Er lavoro è fatica. Numero 2. Se nasce stanchi, se vive per riposà. Numero 3. Ama er letto tuo come te stesso. Numero 4. Riposa er giorno per dormir de notte. Numero 5. Se vedi chi riposa, aiutelo. Numero 6. Non fa oggi quello che poi fa domani. Numero 7. Nella vita cerca di fa poco e quel poco fallo fa un altro. Numero 8. Quando te vi è voglia di lavorà, mettete a sedè e aspetta che te passa. Numero 9. De troppo riposo non è mai morto nessuno. Numero 10. Se il lavoro è salute, viva la malattia. Post scriptum. Per evitare di affaticasse troppo una lettura, se consiglia de leggere la presente lentamente, o meglio ancora de fasse la legge da qualcun altro, l'antico romano de Roma. Va, va, scendi lungo le svolte oscure del viale che porta a Trastevere. Ecco, ferma e sconvolta, come dissepolta da un fango di altri evi, a farsi godere da chi può strappare un giorno ancora alla morte e al dolore, hai ai tuoi piedi tutta Roma. I ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro i fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Vieni figlio della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. Stupenda e misera città che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate. Mi hai insegnato a difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni eppure sono fratelli, proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda, stupenda e misera città, che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ai borghesi, tagliano pezzi a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlio della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. È la notte più bella dell'estate, Trastevere in un odore di paglia, di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dorme ancora. Gli angoli bui, le pareti placide risuonano di incantati rumori. Uomini e ragazzi se ne tornano a casa sotto festoni di luci ormai sole, verso i loro vicoli che intasano buio e immondizia, con quel passo blando da cui l'anima era invasa quando veramente amavo, quando veramente volevo capire. E come allora scompaiono cantando. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi da tristezza. Per non perdere la memoria, come scrive Pierpaolo Pasolini, per non vendere gli antenati, per non essere presi da tristezza, siamo andati alla ricerca di quest'altra Roma, quella che poi la ritrovi dentro certi sogni, no? Certi sogni dei certi romani. Stanotte, dentro al letto mi giravo, non lo so perché. C'avevo una gran smania addosso, forse sognavo oppure me grattavo, ma intanto me giravo a più non posso. Poi, come succede sempre in dormiveglia, c'è una visione bella e travolgente, sembrava che ero ricco a profusione e di tutto il mondo non me fregava niente. Vestiti, donne, macchine e gioielli stavano lì e li toccavo a mano, convinto che con tutta sta ricchezza avrei trovato il modo per curarmi e ritrovar persino giovinezza. Però me sveglio e nel guardarmi attorno mi ritrovo dentro una stanchezza, con tutti i pensieri d'ogni giorno, e sulla bocca un senso d'amarezza. È proprio vero il detto degli vecchi, che della vita ci hanno conoscenza, datte da fa a superare i bisogni, accontentate di quello che già c'hai, il resto dammi retta, so sogni. Un'altra Roma, e questa era un'altra Roma, è quella dell'812, sì, di Garbatella, dove ho trovato il sogno, ma è quella, sì, di piazza Bartolomeo Romano, che nel 43-44 ha visto dal tetto del Palladium cadere volantini contro il nazifascismo. Infatti c'è la targa Franco Bartolini partigiano di Gap e Bandiera Rossa, che con altri partigiani gettarono questi volantini. Un'altra Roma, che poi era pure quella di suo padre, cioè del mio bisnonno, un'altra Roma è quella dei nonni, un'altra Roma era quella del padre Duilio, che nel 25 scampò ad un proiettile di un fascista perché a Borgo, mentre passava il fascista, lui non gli volle fare il saluto romano. Un'altra Roma, che la ritrovi dentro i racconti proprio di quei nonni partigiani. Una sera, sulla piazza De Panico, si presentorno su un camion tedesco le SS, che con guardar cagnesco cercavano un sospetto bolscevico, ma due fanciulli, per aiutar st'amico, fregorono lo zucchero in cucina. Scansati i tedeschi con manfrina, girarono dietro il mezzo del nemico, svitarono il tappo al serbatoire, buttarono lo zucchero lì dentro, così che ci abbastò qualche momento per dargli ferri vecchi quel motore. Con quell'azione piena di valore salvarono la vita a quel poraccio, facendo fa la parte del pagliaccio a chi credeva d'essere superiore. Un'altra Roma, un'altra Roma, che era quella che strillava: sentite che vi dice il Sor Capanna, e il 1900 s'avvicina, è ritornato il tempo della manna, che uffa ce la danno la farina. Un'altra Roma, quella del 1942, quando le autorità di regime ripristinarono la festa trastevrina detta festa dei Noantri, e il duce in persona ordinò l'illuminazione di tutto Viale Trastevere, allora Viale del Re, con centinaia di festoni ornati di lampadine nonostante l'autarchia e la guerra. E una scritta diceva: Trastevere, Trastevere, brilli di tanta luce, ti fan corona il duce, la Madonna e il Re. Quella Roma che poi durante la notte, mani ignote, ruppero con la fionda ad una tutte le lampadine, e alla scritta edificante furono sostituite queste parole qua: stanchi de tanta luce, volemo sta all'oscuro, andatevene a fanculo, duce, Madonna e Re. Un'altra Roma, un'altra Roma era quella della zona verso le Ardeatine, con le case fatte con la paglia. Sta Shanghai stava dentro una conca che l'inverno l'acqua piovana che scendeva dai bordi di queste colline invadeva queste case basse, capito? Proprio fatte a pagoda, coi bagni all'esterno, coi lavatoi esterni. E io mi ricordo che i ragazzi sfilavano le porte e ci facevano le barchette, perché l'acqua o l'acqua arrivava proprio al filo del davanzale. Un'altra Roma sta là, dove ha macellato in fretta, macellazione umana clandestina, là in un campo deserto dell'Appia abbandonata, e ancora più in fretta, con le mine e l'immondizia l'infame fossa hanno colmata. Fortunata Tedesco, moglie di Cesare Tedesco, ucciso alle Fosse Ardeatine. No. No, poi... No, io poi... Io non ci ho creduto, no? Fino a che non l'hanno ritrovato, io non ci ho creduto. Poi man mano che sono venuti fuori... No, io prima, fino all'ultimo, io non ci volevo assolutamente credere, non ci volevo credere assolutamente. Infatti, quando sono andata lì, la mia sorella, siccome che abitavamo insieme, si aiutavamo, lei lavava, io stiravo, insomma, facevamo tutto insieme, no? Lei c'era andata e aveva riconosciuto qualcosa, e allora un giorno mi disse: Senti, non c'è, guarda, però ci dovresti andare, no? E io: no, io non ci vado, no, non ci sta lì, non c'è. E lei aveva detto a tutti: guarda che io ho riconosciuto la roba, ho riconosciuto tutto lì. E allora tutti a dire: ma va. Oh, e allora a notte io sognai che stava in mezzo a tanta gente e mi faceva così, mi diceva: va. Allora ecco che io ce vado una mattina ce vado con mia sorella e con mamma, vado, entro lì e c'erano tanti dottori, c'era il professor Ascarelli, entro dentro a sta stanza, una stanza grande con tavolo a ferro di cavallo, con tutte ste cose, perché avevano levato addosso col numero mano a mano che trovavano la sarma. Allora io sono entrata, allora quando mi ha visto il professore, lei come si chiama, dice: venga qua cocca mia, perché ormai è successo, capito? È successo, disgraziatamente, però è un peccato che rimangono sconosciuti, no? Venga qua. Oh, ci credi che io mi sentivo, sarò stupida, ma io mi sentivo prende così, domani che mi spignevano. Io al primo posto che mi sono fermata ho riconosciuto subito la roba di mio marito. E allora, siccome che io non avevo mai pianto, no? Io non ho mai potuto fare una lacrima, ma quando è stato in quel momento che io l'ho riconosciuto, il professore mi ha guardato: signora, ma lei, questo è mio marito, questo è un pezzo di mutande, questo è il fazzoletto era bianco bordato giallo, il pezzo di mutande da uomo, il pullover se l'era fatto fa durante che stavamo nascosti, poi il vestito portava un vestito gessato che ci ha sposato, era un vestito blé a righe bianche, però era diventato tutto marrone. Allora io dissi al professore: il vestito era blé, eccolo, sta qua, è questo qua il vestito che ci aveva sposato, marrone, adesso è tutto marrone, ma è sicura? Sì, sono sicurissima. Allora venga qua. E mi portò davanti a una, come se poi una cassaforte l'ha aperta, dice in tasca che c'aveva. Dico, guarda, in tasca c'aveva un portafoglio che si era comprato in Africa e che adesso si vendono pure qui, quelli con le pelli così pressate con quei disegni, e in più c'aveva una scatoletta, sì, una scatoletta di metallo che, sì, come lui quando aveva fumato la cicca, le metteva tutte dentro lì per dopo rifacciare un'altra. Infatti la cinta, guardi, è de cuoio tubolare, era de cuoio tubolare. Poi che altro? Ah, mi disse se c'aveva alla bocca qualche cosa. Ho detto sì, c'è qualche capsula pure d'acciaio. C'aveva qualche capsula. Insomma, quando ha aperto la cassaforte a Scarelli, il professore Scarelli mi si abbraccia e mi dice: signora, ce ne stanno tanti desconosciuti, magari fossero tutti bravi come lei a riconoscere suo marito. E io infatti io l'ho riconosciuto e dopo ho pianto tanto, però dopo sono stata meglio, ma tanto ho pianto, che poi è passato tutto quel malore, tutto quel nervoso, tutto. Eccola qui la storia. Eccola qui, un'altra Roma, quella che tutt'intorno s'alzavano impalcature e casamenti in costruzione, e grandi prati, depositi di rottami, terreni fabbricabili, e da lontano, forse dalla Marranella, dietro il pigneto, si sentiva giungere la voce d'un grammofono ingrossata dall'altoparlante. Erano giorni stupendi quelli. Erano alberi, tanti alberi pieni di frutti. Se li mangiavano tutti i frutti dell'alberi se mangiavano, non gli davano manco il tempo di maturare, se li mangiavano verdi. Nessuno sapeva il sapore dei frutti maturi. Erano giorni in cui l'estate ardeva ancora, purissima, appena svuotata un po' dentro dalla sua furia. Via fanfulla da Lodi in mezzo al pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati, era di una granulosa grandiosità nella sua estrema piccolezza. Una povera, umile, sconosciuta stradetta perduta sotto il sole, in una Roma che non era Roma. In quella Roma dove mamma Roma ha saputo e corre, urla e si dispera, perché è sola mamma Roma. Perché la città non grida, le facciate delle case continuano a essere illuminate dal sole, e la cupola di Don Bosco è là, è quella di sempre, ancora oggi è la stessa, mentre sale il vociare della città, sempre più cinica e indifferente. Tutto com'era e continua a essere, come la cadenza di una maledizione, in quelle stesse strade dove anche Stefano Cucchi ha vissuto. Finché non ha incontrato il suo destino, non ha mai smesso di succedere. Un'altra Roma. C'è un'altra Roma ancora da ricordare, da sognare, da liberare, da ritrovare, da ribellare, da cercare come se cerca la felicità, come la cercava Trilussa. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. E tutto sommato la felicità è una piccola cosa, perché Roma te fa piagne e te fa ride, perché Roma è come una storia d'amore, è una storia d'amore che non finisce mai. Numero di stanotte, a chi hai stregato il cuore? La verità fa male, lasciami sta visione pestera, din don, amore, cento campane stanno a dire no, ma tu amore mio, sei mai lasciato ancora? strega, chissà. A un'altra Roma di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio. Fermata non richiesta di Donata Chiricò con Naike Anna Silipo, regia di Patrizia Bollini. Eppure così è stato. Incerta e traballante a te mi afferravo. Mi appariva più sicuro che affidarmi solo alle mie gambe. Cercavo di scusarmi per la polvere. Mi vergognavo per il fango. Sin da bambina avevo imparato che cadere forse era concesso. Sporcarsi mai. Mai! È così che ho cominciato ad essere tutta anima. Lei è leggera, vola, non cade, è puro spirito. Soffre ma non sanguina, non sporca mai. Un giorno però si fece spazio sul mio seno. Organizzò tutto da sola, io certo non fui interpellata. Sapevo tuttavia che non potevo negarle un posto così vicino al cervello e al cuore. Sapete, io volevo solo rotolarmi sull'erba, sentirne il profumo, ma non me lo lasciavano fare. Mi dicevano: ma sei pazza? Pazza a me? Ah sì, adesso ricordo, sono stata pazza una volta. Era il 1965, avevo 34 anni. Sono stata in uno strano posto. All'epoca non sapevo nemmeno esistessero luoghi così, padiglioni, recinzioni, grate, sbarre in ferro, sorveglianza esterna, sorveglianza interna, pozzetti, chiavi speciali, chiavi a tubo. Alcuni poi non avevano nemmeno le finestre. E se le avevano, non potevi guardare fuori. E non potevi aprirle, erano troppo in alto e non avevano maniglie, erano delle non finestre. Delle finestre disoccupate, delle finestre orfane di occhi e di mani. Beh, immaginerete bene che in un luogo così non è di mia volontà che ci sono andata. Tecnicamente direi che non è con i miei piedi che ci sono andata. Del resto io ero una mamma, avevo due bambine. Perché mai avrei dovuto lasciare la mia casa? E poi per 10 anni! Sì, lo so, scrivevo poesie. E i poeti, si sa, un po' bizzarri lo sono. Sono capaci di dedicare dei versi alle galline. O a uno sgabello, addirittura a Hiroshima. Di poeti e artisti in manicomio ne sono finiti così tanti, troppi, ed io non ho saputo nemmeno nominarli, cantarli, piangerli. Nella mia prossima vita voglio scrivere almeno una poesia e trovare il modo di farci abitare i poeti finiti in manicomio. Anche solo nominarli per una volta, visto che non ci pensano i libri di letteratura. E allora i giovani cosa mai sanno dei poeti? E di quali poeti sanno veramente? Sapete voi di Dino Campana? E perché dovreste? È solo un poeta morto in manicomio. Se per questo era pazza anche Camille Claudel, scultrice, internata per volere della famiglia e sotto richiesta della madre. Passò 30 anni in manicomio senza mai dare segni di aggressività o di violenza. Continuava a scrivere lettere struggenti chiedendo solo di tornare a casa. Addirittura i medici lo consigliarono ai familiari, ma quelle nobili mani che avevano lavorato il bronzo, il marmo e l'onice furono amputate per sempre. Morì in manicomio. Era il 1943. Nessuno era presente al suo funerale. Chi cercasse la sua modesta sepoltura non la troverebbe. La croce 1864-1943 occupava un terreno poi requisito per necessità di servizio. Camille Claudel immaginava cose che non c'erano. Accusava il suo maestro di attribuirsi le sue opere. Voleva vivere stando solo con i suoi gatti. Beh, 30 anni di manicomio se li meritava, e come? Come si meritava anche di non essere menzionata per quasi mezzo secolo nei libri di storia dell'arte. Non è che nella vita una donna può pretendere di fare proprio tutto ciò che vuole. Prima una vuole fare lo scultore, senza tenere in considerazione che nella sua lingua nemmeno esiste la parola scultrice. Poi vuole andare a Parigi a lavorare in un grande atelier. Non contenta di questo, si innamora del suo maestro, va a vivere con lui senza nemmeno sposarlo, poi lo lascia, anzi gli permette di sposare un'altra donna, e poi vuole anche tornare a casa a mettersi lì a scolpire come se nulla fosse. Ma insomma, quella povera famiglia e quella povera madre cos'altro avrebbero potuto fare? Lasciarla di nuovo libera di fare quello che voleva? Meglio metterla al sicuro. E perché mai in manicomio ci finisce anche un essere impaurito e del tutto inoffensivo come Janet Frame, poetessa che sfugge alla lobotomia solo grazie ad un premio letterario? Beh, se così non fosse stato, cannibali di nuova generazione sarebbero arrivati con un bel bisturi vicino al suo cervello e ne avrebbero tagliato un pezzetto. Ah, la psichiatria. Regno in cui ha trovato spazio ogni più sadico pensiero partorito dalla mente umana. Il signor Moniz, ad esempio, insignito del premio Nobel per la sua straordinaria scoperta in neuroanatomia, aveva rimosso i lobi frontali a due scimpanzé definiti bizzosi, e questi erano diventati placidi. Da ciò ne aveva dedotto che anche per gli esseri umani sarebbe stata la stessa cosa. Oh, sei un po' giù di corda, ti taglio un pezzo di cervello. Oh, la tua anima soffre, ti taglio un pezzo di cervello e vedrai che ti andrà solo di andare a ballare. Sei omosessuale. Beh, dato che non ti posso proprio tagliare quello che ti vorrei tagliare, ti alleggeriamo di un pezzo di cervello e vedrai che il mondo ti sorriderà di nuovo. Ma non è atroce che nel XX secolo un medico possa impadronirsi di un uomo col pretesto che egli sia folle e fare di lui ciò che gli piace? Penso a Van Gogh, ad Artaud e al mio amato Hemingway, che dopo si è pure ucciso. Povere anime alate finite rinchiuse a guardare pavimenti polverosi. Il signor Artaud oggi non ha mangiato, passa allo shock. L'elettroshock fa di me un assente, che si avverte assente e che per settimane va in cerca del proprio essere, come un morto accanto a un vivo che non è più lui, che esige la sua venuta e nel quale non può più entrare. Dopo l'ultima serie, sono stato per tutto agosto e settembre assolutamente incapace di lavorare, di pensare, di sentirmi essere. Questo trattamento iniquo mi distacca da tutto e dalla vita. Ogni elettroshock mi ha ucciso ed io non voglio più essere assassinato. I poeti, eccoli là, povere creature senza scorza, carne viva al vento e al gelo, angeli mai beati, bambini che nessuno vizia, semi caduti in terre sterili, mercanti d'occhiali che nessuno vuol portare. Strano mestiere questo. In fondo nessuno sceglie di essere poeta, è lei che sceglie, è la poesia. Ti chiama e non vuol sentir ragioni. Che tu abbia da prendere un treno o accompagnare i tuoi figli a scuola. Che tu debba correre a pagare le tasse o organizzare una rivoluzione. Lei continua a bussare alla tua porta. E suona, strimpella, importuna e non c'è modo di placarla se non obbedendole. Il poeta, in fondo, è come un girasole. Se anche solo volesse smettere per un attimo di dirigersi verso la propria stella, non potrebbe. Il girasole è esattamente quello che fa. Questa è la sua bellezza, altrimenti sarebbe solo una margherita gigante. Eh beh, del resto se Van Gogh le ha dipinto, un motivo ci sarà pur stato. E non ditemi perché anche lui era pazzo. Vi concedo di dirmi che la sua casa gialla avrebbe potuto anche dipingersela di un colore diverso. Ma lui era Vincent Van Gogh ed è il mio Mozart delle arti visive. Sì, sì, lo so, anche Mozart era pazzo. Voi non avete idea di quante volte ho pensato che sarebbe stato bellissimo essere una pianta, possibilmente un albero da frutto. Non è che lo abbia confessato tante volte, già mi hanno rinchiusa in manicomio, figuriamoci se mi mettevo a dire certe cose. Un nonno amorevole mi avrebbe gentilmente chiesto il permesso di usare i miei rami per l'altalena dei suoi nipotini e io non sarei mai stata sola. E poi le api mi avrebbero sempre fatto visita, e le farfalle e gli usignoli. Non avrebbe potuto che essere così. Sono nata con la primavera e la primavera è destino di bellezza. Avrei avuto le mie radici ben salde a terra, il cielo sempre sopra di me, le stelle di notte, il sole di giorno. Avrei perso le foglie quando era tempo di perdere le foglie, e avrei avuto le gemme quando era tempo di avere gemme e fiori. E poi avrei sempre potuto sentire il profumo del vento, il mare che c'è nel maestrale, l'agave di Lipeccio, le resine fragranti della tramontana. Il vento. Perché non c'eri almeno tu in manicomio? Mamma, cantami ora il dolce suono della tua voce. Cantami, ti prego, e dammi il sonno. Mamma, parlami ancora. Amami, finalmente. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia. Il Senato e la Camera hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose per sé e per gli altri o riescano di pubblico scandalo. L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere richiesta dai parenti, tutori o protutori. Il licenziamento del manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta del direttore del manicomio o delle persone menzionate o della deputazione provinciale. Legge 14 febbraio 1904, numero 36. Manicomio. Ma come ci sono finita là dentro? Ah, io non lo so, in fondo non lo voglio nemmeno sapere. Quello che ricordo è che avrei dovuto fare una gioiosa scampagnata, almeno così aveva predetto il mio oroscopo. E quello che successe è che invece feci la conoscenza di quattro giovanotti, molto affettuosi e allegri. Mi caricarono su uno di questi stravaganti veicoli con sopra una croce verde e mi portarono al Paolo Pini. Sì, sì, sì, sì, lo so, sembra il nome di uno stadio, ma non lo è. E non è né il nome di un giardino pubblico o di un premio letterario, è il nome di un manicomio. Povero Paolo Pini. Anna Kulishov lo aveva amato come un figlio e lui aveva sviluppato un sano odio verso l'oppressione e le ingiustizie. Si era persino messo in testa di curare i poveri. E poi aveva un sogno. Lo stesso di Maria Montessori, occuparsi dei bambini disabili, portarli tra i banchi di scuola, primi fra tutti gli epilettici, e hanno finito per dedicargli un manicomio. I bambini ci finivano a 7 anni per marcate difficoltà scolastiche, perché taciturni o poco vivaci, ci finivano perché paraplegici, oligofrenici, gravemente o lievemente ritardati. Alcuni ci finivano semplicemente perché erano sordi, altri perché erano orfani. Ci finivano e ci passavano tutta la vita. I più fortunati diventavano malatini, manovalanza a buonissimo mercato, insomma, servi del manicomio. Eccola là che ritorna. Manicomio. Ma-ni-co-mio. Ma che vuol dire manicomio? Nessuno te lo dice. Persino il glorioso vocabolario della lingua italiana Treccani è reticente ed evasivo. Manicomio, dal greco mania, pazzia, e comein, curare, datazione, lemma 1834, un tempo, luogo di ricovero dei malati mentali, un tempo, ma quale tempo? Io in un manicomio ci sono stata e mica sono passati secoli. C'erano i Beatles quando mi ci hanno portata e se per questo c'era già Franco Basaglia. Manicomio, manicomio, beh certo è uno strano nome. Fa rima con encomio, ma in realtà è un nosocomio. Una volta addirittura si chiamava frenocomio. Peccato però che chi si era inventato questo nome non sapeva di cosa stesse parlando. E sì, perché quando la mente si chiamava Frenes, era una mente che ancora non era stata ingabbiata nel cranio. Era una mente che stava ancora là, nel tuo corpo, tra il cuore e la pancia. Era una mente vita, non era una mente testa. Era una mente emozione, non era una mente discernimento. Era una mente che abitava con te, non era una mente che ti sovrastava. E invece il fondatore della società frenopatica, il dottor Biagio Gioacchino Miraglia, afferma quanto segue. Lo scopo cui deve tendere questa nobile accademia è quello di sollevare gli infelici dal morbo che li flagella nell'intelletto. Questo morbo, che si chiama pazzia, non è affezione subiettiva dello spirito, come ancora da molti si crede, ma bensì di quell'organo per mezzo di cui esso svolge e manifesta le sue facoltà. Per lo che la terminazione medico-psicologica o psichiatrica che comprende un impossibile concetto di subiettiva modificazione morbosa dell'anima deve essere surrogata dal termine frenopatia, che comprende e spiega il vero concetto della pazzia qual morbo o affezione del cervello. Oggetto di studi di tale società, la fisiologia, la patologia del cervello e del sistema nervoso, l'anatomia comparata. Fine principale, perfezionamento dell'istituzione ed organizzazione dei manicomi e della giurisprudenza alienistica. 2 giugno 1861. Siamo nel manicomio di Aversa e si festeggia il Regno d'Italia dando vita ad un'associazione che si occupi di disporre manicomi e leggi relative a quel morbo chiamato pazzia, traslocandolo da non si sa dove al cervello, che per di più all'epoca era un emerito sconosciuto. Manicomi e leggi, un circolo virtuosissimo, altrimenti come si fa a trasformare un luogo di cura in una reclusione? Ben inteso, con la forza della legge, però nessuno te lo spiega che manicomio è reclusione. Anzi, quando vai a cercarti i sinonimi, ne vengono fuori di bellissimi. Babilonia, Babele, casino. E non c'è un contrario. E perché non c'è un contrario? Forse perché il contrario di manicomio è sempre un manicomio? Del resto è perché ci vivi in un manicomio che ci finisci dentro al manicomio. Ma una volta che ci finisci dentro, ti succedono delle cose veramente incredibili. Eravamo accuditi come bambini. Non eravamo mai soli. Gli uomini stavano da una parte e le donne dall'altra. La sera si preoccupavano persino che non cadessimo dal letto. Ci mettevano le fascette alle mani e ai piedi, di quelle moderne, intendiamoci, fatte di canapa, non erano certo aggeggi in ferro. Si sa, un malato saldamente fissato a letto difficilmente provoca noie. Ci facevano fare il gioco del silenzio e non ci facevano fare mai niente. Ma allora perché ci svegliavano alle 5 del mattino? Non dovevamo nemmeno apparecchiare. Quanto a tovaglie e tovagliolini proprio non ce n'erano. Ci spettava solo un cucchiaio e poi ci preparavano da mangiare. Sì. Addirittura ci lavavano con dei getti fortissimi. Altro che acqua park, altro che idromassaggio. Si chiamava bagno di pena o bagno di forza. Te lo facevano subito, appena entravi al manicomio. Ma magari era solo perché una volta che ci prendevano le impronte digitali, non è che avessimo le mani pulitissime. Alla fine di questo bellissimo bagno odoravi di detersivo. Eravamo più profumati dei panni stesi al sole. Solo che a noi non ci stendevano il sole. Ci stendevano e basta. Ad altro tipo di pietà non potevamo aspirare. Eravamo tutti su un tram che prevedeva solo fermate non richieste. Ci consegnavano la divisa, ci levavano i diritti civili, ci nominavano membri del casellario giudiziario e ci presentavano i nostri compagni di giochi. La signorina Serenase, il signor Leptozinal, il signor Largactil, la signora Mogadon, la signorina Valium, salve! E poi uno strano signore che si chiamava Dobren. Dopo che me lo fecero conoscere, non riuscivo nemmeno a sedermi. Fermarmi era diventato impossibile. Ero la versione rave di un carillon già di per sé sconquassato. Mi avevano costruito un nuovo tasto on e si erano dimenticati di prevedere il tasto off. I medici ad un certo punto mi avevano anche lasciato andare. Ero io che non potevo lasciare andare il manicomio. Là dentro avevo imparato a resistere. E finalmente arrivò una macchina da scrivere. Me la fece trovare nel suo studio il dottor G. E da quel momento la mia poesia tornò a farmi visita. Almeno lei. Ma anche lei odorava di manicomio, come la mia vita. Lo vuoi, imparerò ad aspettare. Mi siederò al telaio della vita e tesserò. I colori li domanderò alle stagioni e le mie mani saranno infaticabili. Dall'alba imparerò a ricominciare. La terra mi darà forza e pazienza. Al sole potrò però parlare di una ninfa divina. L'amore le ha preso tutto. Solo la voce resta. Non si muore d'amore, si vive. Qualche volta poi ci facevano indossare una bellissima veste con tanti lacci e venivano fuori dei nodi bellissimi, come quelli del grembiule della scuola, sì, ma molto più difficili da slegare. Nemmeno la mamma riusciva a scioglierli, erano troppo stretti anche per lei. Erano dei nodi super, meglio di quelli dei marinai. Erano dei nodi speciali, erano più nodi dei nodi alla gola. Per farli e per scioglierli ci volevano i dottori. Eh sì, quelli col camice bianco, proprio quelli. Sì, sì, sì, sì, sì, quelli del giuramento di Ippocrate, proprio quelli. Sì, gli stessi che hanno ospitato quel gran bell'uomo di Artaud. Insomma, e quelli che guidano la macchina più bella del mondo, altro che Ferrari, altro che mongolfiere, aerei e navicelle spaziali, loro. E loro hanno la Cerletti, da non confondere con la Bialetti. Ho detto Cerletti. La Bialetti fa il caffè, che tra l'altro a me fa male perché mi rende nervosa. La macchina dei dottori non fa il caffè, frigge. Frigge cosa? E frigge il cervello. E da quando in qua il cervello si frigge? Ed io che ne so, sono una poetessa io, mica una cuoca. E che poetessa sei se non sai cucinare? Le poetesse devono saper scrivere, non importa se non sanno cucinare. Una donna che non sa cucinare non è una donna. Infatti io sono una poetessa e mi piace nutrirmi e nutrire di parole. E le parole mi piace vederle danzare, farle saltellare, e mi piace vestirle. Qualche volta alla buona, qualche altra volta con gran classe, e portarle in giro per il mondo. Insomma, io di cervelli fritti non ne so niente e non ne voglio sapere niente. Ma come, appena detto che ti piace tanto la macchina che frigge i cervelli? Non ho detto questo. Ho detto che i dottori hanno una macchina bellissima, ha tanti fili e te la puoi portare a casa. È compatta, trasportabile e, volendo, la puoi anche mettere accanto al tuo divano. Certo, non ci devi mettere sopra il tuo diffusore di oli essenziali o la tua pianta grassa perché potresti danneggiarla, ma di sicuro puoi tenerla accanto al tuo divano. E poi è una macchina d'epoca, classe 1938, gran classe, la stessa delle leggi razziali. Io mi ci sono fatta più di un giro, una volta addirittura senza anestesia preliminare. Avevo tentato di prendere la caposala per la gola, ma solitamente ti facevano la premorfina e ti davano il curaro. Era bene che gli arti non si agitassero troppo durante la scarica elettrica. Ti devi solo stendere e respirare profondamente. Poi ti mettono un boccaglio per evitare morsi alla lingua o alle labbra. Ti bagnano le tempie e ti appoggiano gli elettrodi sulle parti inumidite. A quel punto la corrente parte e per qualche frazione di secondo attraversa il tuo cervello. I muscoli si irrigidiscono, tutto il corpo comincia ad agitarsi. È la tanto agognata crisi convulsiva che dovrebbe guarire tutti i nostri mali grazie al rilascio nel sangue di sostanze vitalizzanti, le acroagonine. Insomma, le cose erano andate così. Qualcuno aveva detto al dottor Cerletti che al macello di Roma uccidevano i maiali con la corrente elettrica, così lui volle andare a vedere come avveniva questa macellazione. È solo che scoprì che i macellai non utilizzavano la corrente elettrica per uccidere i poveri suini, ma piuttosto per stordirli e poter fare in santa pace quello che dovevano fare, e cioè accoltellarli e dissanguarli. Cerletti fu pazzo di gioia. Ops, ci scusi Cerletti per il pazzo. Finalmente aveva le prove di ciò che andava dicendo, e cioè che la corrente elettrica non sempre provocava la morte e quindi poteva essere usata a fini terapeutici anche sull'uomo. L'importante era farla passare per il cranio e non per il corpo. I cani della sua clinica ne sapevano qualcosa. Nasceva così l'elettroshock. Se oggi qualcuno di voi volesse provarne i brividi, può farlo in più posti d'Italia, per l'esattezza 9. E molti si stanno dando da fare perché i centri clinici autorizzati a praticarla aumentino. Rassicuratevi però, oggi il tutto avviene in anestesia totale. Se decidono di mettere le mani sul vostro cervello, lo fanno solo dopo che sono certi che vi siate addormentati, mica come all'inizio, che te lo facevano da svegli. Inoltre è una macchina molto democratica. Ci possono salire tutti. I depressi, gli schizofrenici, i paranoici, chi è affetto da deliri, i taciturni. Insomma, tutti hanno il diritto di provarla, anche i bambini. Alberto, per esempio, era solo un orfano. Andava a scuola dai salesiani e, visto che era un poco triste, hanno pensato bene di farlo ricoverare nella clinica del dottor Cerletti. Ma lì nessuno riuscì a trovarlo pazzo e gli dissero che poteva tornare a scuola. I salesiani a quel punto non lo volevano più. E fu così che anche lui andò a finire nel suo bel manicomio. Aveva 15 anni. Trascorso il suo periodo di osservazione, un medico lo convocò, gli fece una diagnosi di stato depressivo e ordinò il suo trasferimento in un reparto di internamento, destinandolo all'elettroshock. Nel mezzo del salone c'era lei, la macchina, poggiata su di un carrello. Era grande ed era smaltata di bianco. Diversi cavi per la corrente elettrica si dipartivano da essa. Aveva alcune manopole e levette, e più in alto numerosi quadranti illuminati da una luce verde. Ero molto impaurito. Ero impaurito dalla vista della macchina e da tutte quelle persone che mi circondavano. Ero impaurito dal fatto che avessero già deciso tutto sulla mia vita e che apparivano stupiti del mio rifiuto di sottopormi a un trattamento che consideravano necessario per il mio bene. Ai loro occhi, quella resistenza era solo una prova della mia incapacità a distinguere ciò che era bene per me e quindi un'ulteriore conferma della gravità della malattia. «Pronto?» ha chiesto il dottore. «Pronto!» ha risposto Sur Romilda. Poi più nulla. Ho perduto immediatamente conoscenza. Mi sono svegliato dopo non so quanto tempo. Sapevo che mi era accaduto qualcosa di terribile, ma non riuscivo assolutamente a ricordare nulla. Avvertivo solo una forte irritazione all'interno della testa e tutti i nervi tesi allo spasimo. Avevo perduto quasi del tutto la sensibilità alle mani e al resto del corpo. Anche i piedi non sentivano il contatto con il pavimento e le gambe si piegavano. Anche la visione era disturbata perché tutto intorno a me sembrava ondeggiare. Perché mi stava accadendo tutto questo? In collegio ci avevano insegnato che quando un bambino si comporta male va incontro a tante cose brutte e niente li va per il verso giusto. Se questo era vero, voleva dire che anch'io stavo subendo una punizione per qualcosa che avevo commesso in passato. Ma cosa? Cosa? Cosa? Ma una volta quelli che armeggiavano con questa macchina non li chiamavano strizzacervelli? Mi pare di sì, magari i cervelli prima di friggerli li strizzano. Strizzacervelli o friggicervelli che siano, a me quelli là non mi piacciono proprio. Non dire così, loro sono dottori. Per non parlare poi di quella loro macchina che tanto decanti, pensando addirittura che potrei tenerla accanto al mio divano. Ma come ti salta per la mente di dire che è una macchina bellissima? Ti hanno fatto fare un giro su quel marchingegno e ti sei bevuta il cervello. Hanno ragione a dire che sei pazza. Sei pazza, sei pazza, sei pazza. Ti prego, non chiamarmi così, tu sai che io volevo solo rotolarmi sull'erba. Ce l'ho con quella macchina, ce l'ho con chi l'ha progettata, con chi l'ha costruita e con chi la guida. Ce l'ho con questa umanità ottenebrata, con tutti quelli che si alzano la mattina senza essersi mai svegliati. Ce l'ho con i tanti mostri che vedo in giro, mascherati da ambientalisti, buddisti, pacifisti, comunisti, seguaci e devoti di ogni fede e credo. Ce l'ho con chi fa santi gli assassini. Ce l'ho con tutti quelli che si battono il petto solo perché non sanno cosa significa amare. E come si sa, per amare le braccia bisogna aprirle, al contrario per battersi il petto bisogna chiuderle. Ce l'ho con quelli che hanno fatto prigioniera Eluana e hanno ucciso Ipazia. Ce l'ho con tutti quelli che hanno dato alle fiamme Giovanna d'Arco e Giordano Bruno. Ce l'ho con quelli che hanno occhi e coltivano il buio, hanno orecchi e seminano disarmonia, hanno mani e affamano, hanno piedi e incatenano. Ce l'ho con quelli che non dicono mai grazie. Scusa, forse non avrei dovuto, cosa posso fare per riparare? Gli stessi che quando ti vedono ti dicono «Ehi, bello, caro», ma mai si rivolgono a te con il tuo nome. I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Lo diceva un filosofo un po' strano. Lavava il pavimento con le foglie di tè. Eppure aveva capito che a furia di abitare tutto questo frastuono, tutta questa dismisura, avremmo finito col vivere come fossimo sordi. Tutti sordi. Tutti muti. Nuova legge, signori, si decreta l'afasia. Ma no, che dite, non c'è affatto bisogno di provocare emorragie cerebrali, metodi arcaici. E poi, puntare così in alto i suoi rischi. Noi preferiamo lavoretti più puliti e meno impegnativi. Assassinare l'anima, ad esempio. Almeno le si sanguina non sporca. Avremo finalmente tanti zombie, portatori sani di una vita in playback, globalizzati e segregati! Globalizzati! Globalizzati. Globalizzati. E con tante parole che nessuno usa, che nessuno vive e che nessuno sa più maneggiare. Maneggiare, appunto. E dove sono finiti quelli che lavorano con le mani? Dove sono finiti quelli che si ricordano di averle? Le mani. Le mani, le mani, guardate. Guardate. Agli umani bisognerebbe ricordare che non sono gli unici animali che hanno il linguaggio, ma bensì gli unici animali che hanno le mani. E io con le mie mani vorrei costruire una macchina che va sulla luna. E così finalmente potrei portarti sulla luna, Alda. E da lì potresti guardare la terra e farle danzare e saltellare lì le tue parole. E pensa, ti ricordi Saffo? E Saffo cantava la luna, le stelle. Tu saresti ancora più grande di Saffo. Sulla luna potresti abitarci e così potresti dedicare una poesia alla terra. Sino ad oggi i poeti hanno sempre cantato la luna. E tu potresti finalmente cantare la terra. Ma te li immagini i titoli dei giornali? Dalla sua nuova dimora lunare, Alda Merini dedica una poesia alla terra. Stralunata! Più che mai Alda Merini compone un'ode alla terra. Ormai trasferitasi sulla luna, Alda Merini compone i sonetti alla terra. Anche David Maria Turoldo, se fosse ancora tra noi, proverebbe una certa invidia. Lui sì che era bravo a scrivere le poesie su Gesù. E poi ne aveva scritta una proprio sui poeti. Almeno un poeta ci sia per ogni monastero, qualcuno che canti le follie di Dio. Insomma, Alda, quello che voglio dirti è: ammettiamo pure che la macchina che frigge i cervelli sia una macchina bellissima e che i dottori siano fortunati a poterla guidare, ma a te non piacerebbe una bellissima macchina per andare sulla luna? Pensa, un lunghissimo nastro trasportatore fatto di fiori di loto e di magnolie, è un corrimano fatto di legno di betulla. Noi ci saliamo sopra e ad ogni sbocciare di fiore avanziamo di un passo. E cosa importa se ci mettiamo un'eternità per arrivare sulla luna? Tanto tu sei una poetessa, Alda. Sei immortale. Fermata non richiesta di Donata Chiricò, con Naike Anna Silipo, regia di Patrizia Bollini. Con Pietro D'Attola, direttore artistico della 10ª edizione di Inventari alla Festa del Teatro Off a Roma, Carrozzerie Notte e Teatro Trastevere dal 9 al 18 ottobre 2020. Pietro, ben trovato. Salve, salve. Cos'è Inventaria? È stata la manifestazione di chiusura della stagione capitolina Teatro Off. Adesso ha dovuto reinventarsi e diventare la manifestazione di apertura. Per i fatti che tutti sappiamo, Inventaria è un festival concentrato sulla drammaturgia contemporanea, votato proprio all'esplorazione dei linguaggi più diversi, più variegati. Quindi anche se quest'anno l'edizione sarà più compatta, mantiene comunque la sua eclettività. Quindi esploreremo tutta una serie di linguaggi, di modalità di stare sul palco diversi di sera in sera. Quanti saranno i lavori presentati? Quest'anno saranno in tutto 8, tra cui il nostro debutto, poi 6 spettacoli in concorso e infine un concerto poetico-musicale in chiusura del festival. Speriamo che, poetico-musicale è ironico, quindi speriamo che possa essere di buon spirito per il resto della stagione. Come saranno distribuiti nei 2 spazi? Si comincia dal 9 all'11 ottobre a Carrozzerie Notte, e poi una piccola pausa lunedì 12 e si prosegue dal 13 al 18 ottobre al Teatro Trastevere. Tutti gli spettacoli sono alle ore 21, anche la domenica. Ci dispiace che quest'anno, appunto, per motivi proprio pratici non si sia potuto proseguire sull'onda di 5 teatri in 4 quartieri diversi di Roma, però per motivi di sicurezza abbiamo dovuto limitarci agli spazi più grandi, che sono appunto Carrozzerie Notte e Trastevere. Però, insomma, volevo anche mandare un in bocca al lupo agli altri teatri che a poco stanno riaprendo, e quindi, insomma, ci rivedremo sicuramente a maggio con l'11ª edizione con loro. Come sono stati i criteri di scelta di queste opere? Allora, noi partiamo sempre dal principio per cui ogni serata deve essere completamente diversa dall'altra. Quindi, partendo da questa, con un bando, noi chiamiamo le compagnie principalmente italiane, ma in realtà arrivano anche domande dall'estero. Con bando chiediamo alle compagnie di partecipare e i migliori spettacoli che si segnalano per ciascun genere li invitiamo a essere dei nostri. Quindi quest'anno abbiamo per esempio Teatro Civile, che in realtà in questo caso è anche molto ironico. Teatro Civile, Teatro dell'Assurdo, Teatro Poetico, Teatro Sperimentale, Teatro Musicale, della commedia, quindi veramente stand up addirittura, quindi abbiamo veramente tutto di più. Ogni spettacolo avrà una singola replica? Tutti gli spettacoli sono in singola replica, l'unico che fa eccezione è il nostro, che è fuori concorso, che è Cascando, il 9 e 10 ottobre, perché è in prima nazionale, quindi volevamo approfittare della situazione per presentarlo nel modo migliore possibile. E per il resto tutti gli spettacoli sì, sono in replica unica, alle 21, la prenotazione è obbligatoria. Per il programma dove si può controllare sul web? C'è sempre il nostro sito che è www.dovecomequando.net e poi abbiamo la pagina Facebook del festival, che è Festival Inventaria, e l'evento che è Festival Reinventaria, perché abbiamo deciso di rinominarlo in questo modo, visto che i sconvolgimenti che abbiamo dovuto subire, che in realtà erano stati anticipati già dal bando, perché abbiamo cambiato strutture, abbiamo preso i partner nazionali più partecipi della selezione del vincitore del festival. Quindi su Facebook, basta sul nostro sito e Facebook. Inventaria, la festa del teatro off, decima edizione a Roma, Carrozzerie Notte, Teatro Trastevere, dal 9 al 18 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro D'Attola. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Con Chiara Crupi per presentare Anomalie 2020, la sperimentazione in periferia, 14ª edizione a Roma, dall'8 al 18 ottobre 2020. Chiara, ben trovata. Ben trovato Federico, grazie. Ci racconti? Spieghiamo intanto cos'è Anomalie. Anomalie prende il nome dal fatto che il Collatino Underground, che è proprio l'ideatore, diciamo, il collettivo del Collatino che ha ideato questo format, questo progetto, chiamiamolo così, 15 anni fa, che cosa ha pensato? Che nelle periferie, come sappiamo, spesso manca un teatro, manca un cinema, insomma non ci sono luoghi di aggregazione, e noi abbiamo pensato di portare questo che era prima festival dell'estate romana, adesso è Roma Rama, portare proprio nei quartieri periferici una grande festa che era appunto un'anomalia, come installando un grande tendone da circo nei luoghi delle periferie, quindi nei parchi. È partito dalla Rustica, è passato poi per Tiburtina, adesso siamo praticamente a Tor Sapienza, all'interno del Parco delle Canapiglie, quindi parliamo di Torre Maura, un sesto municipio, che c'è raccordo, quindi è una situazione particolare, una situazione in cui veramente mancano spazi di aggregazione. Noi installiamo questo sciabito, il nostro circo rosso, per 10 giorni, e in maniera assolutamente gratuita tutta la popolazione potrà assistere a spettacoli di circo, ma anche teatro, concerti e tanti laboratori. Come saranno strutturate le giornate? Siamo in emergenza sanitaria, le regole si fanno ovviamente anche più strette, noi comunque non rinunciamo a quello che è la nostra volontà di animare i territori con l'arte, con gli spettacoli, e lo facciamo però ovviamente seguendo tutte le direttive, per cui tutti gli spettacoli sono, e anche i laboratori e tutte le attività sono sottoposte ad una prenotazione preventiva che si può fare mandando un'email a collatinounderground@gmail.com, ma poi diamo tutte le informazioni, tanto sono sui social sul sito. Come funziona? Dalle 17 alle 18 abbiamo il primo laboratorio dedicato ai ragazzi fino ai 14 anni. Laboratorio di circo, e quindi giocoleria, clownerie, magia, e sarà ovviamente gratuito e durerà per tutta la manifestazione. Per tutta la manifestazione dura ancora dalle 18 alle 19 il laboratorio di teatro canzone popolare e romanesca, che è tenuto da Attrice Contro, Alessandra Magrini, che ha già lavorato in Anomalie per 4 anni, quindi è entrata a contatto con la popolazione del territorio, con i residenti, e si è accorta di quanto c'è proprio di raccolta orale, di memorie, soprattutto poi delle persone anche più anziane. E quindi questo laboratorio è proprio dedicato alle persone fino a 99 anni che vogliono esprimersi attraverso il canto e attraverso anche la canzone romanesca, il teatro popolare. Entrambi i laboratori, che sono gratuiti, presenteranno poi un'opera originale il 17, quindi sabato sera, Alessandra con il teatro canzone. Ha una sua storia, 14ª edizione, come si sta sviluppando nel tempo? ci sono sempre meno spazi di agibilità, questo si può dire, cioè la cultura a Roma, l'evento è un po', ormai appunto è sempre più difficile organizzarlo, però qui dobbiamo parlare di altro. Per quanto riguarda invece il lavoro sui territori, devo dire che la popolazione risponde bene, ma Anomalia non è mai cambiata, nel senso quello che volevamo fare era proprio questo, una grande festa di quartiere, e portare a Roma il nuovo circo, perché 15 anni fa non se ne parlava, tutte quelle esibizioni performative date proprio dall'essere umano, quindi senza animali. Quindi appunto siamo partiti 15 anni fa con l'obiettivo di creare una grande festa di quartiere, crearla nelle periferie, un progetto artistico proprio dedicato alla periferia, e soprattutto nasce anche per portare il nuovo circo a Roma e per animare, diciamo, per soddisfare il bisogno culturale di tutta la popolazione, perché il nuovo circo è eterogeneo, stupisce, emoziona dai bambini ai nonni, per cui abbiamo comunque portato avanti lo spirito del festival, che è rimasto immutato. Cambiano le condizioni esterne, le condizioni delle periferie, anche il grado di rabbia delle persone, se lo vogliamo dire, nel senso che prima ci si lasciava un pochino più andare, adesso abbiamo notato proprio che negli anni magari la gente è un pochino più reticente, questo sì, ma è inevitabile. Per tutti i riferimenti web, per seguire la programmazione? Segnaliamo, oltre a tantissimi spettacoli di nuovo circo con artisti peraltro provenienti da Europa, quindi siamo riusciti ad avere le due francesi, il duo Simmetrica che apre proprio il festival l'8 ottobre, abbiamo poi appunto spettacoli di circo, di Clown Enrico, Co-Clown il 9 di ottobre, ma Stefano Zacchi, e poi tutto il programma comunque è sia sul sito collatinunderground.eu che sui nostri social, c'è proprio la pagina di Anomalive dove è possibile sia prenotarsi che poi vedere tutte le informazioni. Segnalo, oltre al nuovo circo, che è sicuramente predominante, abbiamo poi gli appuntamenti a cui teniamo molto. Si parte il 9 di ottobre con la proiezione di Milano via Padova di Antonio Rezza e Flavio Mastrella, un'opera cinematografica molto attuale, anche se risale a qualche anno fa, e poi avremo un dibattito in streaming con gli autori. Quindi si allarga il pubblico, nonostante il Covid riusciamo ad arrivare anche sul web, quindi coinvolgendo quanto più pubblico possibile. Avremo poi il 14 di ottobre il concerto del Ponentino Trio e il 15 la prima nazionale di Emiliano Valente. Qui teniamo molto perché è un lavoro che si prospetta veramente interessante, si chiama STACCE, che è un acronimo e vuol dire se tu avessi come capitale Helsinki. Quindi aspettiamo quest'ultimo lavoro di Emiliano e lo ringraziamo per presentarlo proprio in Anomalie. Quindi appunto non solo nuovo circo, ma anche teatro, anche cinema e anche musica, e vi aspettiamo. 14esima edizione di Anomalie, la sperimentazione in periferia, a Roma dall'8 al 18 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Crupi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, viva il lupo. Con Dario De Luca della compagnia Scena Verticale, uno dei curatori della 21esima edizione del Festival Primavera dei Teatri, Nuovi Linguaggi della Scena Contemporanea, a Castrovillari dall'8 al 14 ottobre 2020. Dario, ben trovato. Ciao, ciao Federico, è un piacere sentirti. Anche per me. Raccontiamo, per chi non conoscesse Primavera dei Teatri, di cosa si tratta. È un festival sui nuovi linguaggi scenici, un festival sulla nuova drammaturgia. È un festival che da 21 edizioni si occupa del teatro contemporaneo italiano e prova a raccontare cosa succede nel teatro contemporaneo in Italia, e con la scommessa di portarlo a sud. Quindi negli anni è diventato un avamposto del contemporaneo in una terra non facile come la Calabria, ma comunque in un territorio vasto come il meridione d'Italia. Come si caratterizza questa edizione in un momento storico così particolare? Penso che abbiamo costruito un'edizione coraggiosa e che vuole anche stimolare il coraggio. Cioè, bisogna essere prudenti ma coraggiosi. Infatti non abbiamo fatto un festival stitico o arido di proposte. Abbiamo comunque provato a immaginare ricco di possibilità, ricco di spettacoli, di curiosità e che possa incuriosire. Ci sono tutta una serie di compagnie che evidentemente nei progetti che portano in scena portano anche la fragilità che si è acuita in questo periodo storico, per cui non ci sono spettacoli intorno alla pandemia, ma si capisce che tutta una serie di riflessioni e di fragilità nei testi o nel modo di ragionare sui testi o sull'andare in scena si ripercuotono in maniera molto forte. Quante sono le opere che avete chiamato a raccolta? Sono tante, dovrebbero essere intorno alle 20 compagnie, sono 7 prime nazionali, c'è un'anteprima nazionale, poi ci sono naturalmente spettacoli che hanno un po' girato, già hanno avuto un minimo di circuitazione, poi ci sono un cine space di un progetto di Europe Connection, che è un progetto che noi facciamo con la drammaturgia europea, che è già il terzo anno, e quindi siamo al terzo anno di questo progetto di Europe Connection, saranno tutte in cine space, e facciamo delle performance. In tutto questo si aggancia anche un altro progetto di teatro e architettura che abbiamo immaginato con Giancarlo Cauteruccio del teatro Studio Crichton, e faremo quindi questo video mapping su alcuni dei palazzi importanti della città, su alcune architetture della nostra cittadina che raccontano questo periodo storico, per cui lì c'è una presenza molto visibile del festival proprio nella città e si andrà proprio a mescolare con le architetture della cittadina. I luoghi e gli orari del festival? I luoghi sono tanti, c'è il castello aragonese di Castro Villari, c'è il protoconvento francescano con tutti e due i chiostri, noi abbiamo questo magnifico convento francescano con due chiostri gemelli, uno a fianco all'altro, e li utilizzeremo tutti e due per spettacoli, il teatro Sibaris, e poi facciamo anche una vita fuori porta a Morano, che è uno dei borghi più belli d'Italia, sia in un chiostro nel complesso di San Bernardino e sia nel castello normanno svevo di Morano. Per tutte le informazioni sulla programmazione c'è il vostro sito internet. C'è il nostro sito internet, primaverateatri.it, ci sono le nostre pagine Instagram, le nostre pagine Facebook, e naturalmente c'è il sito anche di Scena Verticale, che comunque fa tramite per il festival, e lì ci sono le informazioni su tutto, su ogni singolo spettacolo, sulle sinossi degli artisti, degli spettacoli, come raggiungerci, come prenotarsi i biglietti, perché naturalmente diventa più importante, mai come quest'anno, arrivare da noi in loco con i biglietti già comprati, perché faremo i conti con il contingentamento, con la riapertura almeno dalle nostre parti dei teatri, però non a capienza naturale, ma con meno spettatori in platea. 21esima edizione del Festival Primavera dei Teatri, nuovi linguaggi della scena contemporanea, a Castro Villari, dall'8 al 14 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Dario De Luca della compagnia Scena Verticale, che è uno dei curatori. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima! Viva il lupo! Insomma, ci auguriamo che tutto vada bene, che anche i nostri spettatori si ritrovino in queste scelte artistiche che abbiamo fatto questi mesi. A presto Dario, ciao. Ciao, grazie per l'invito, ciao. Con Maura Teofili, una delle curatrici del Roma Europa Festival dal 18 settembre al 22 novembre 2020. Ben trovata. Ben trovati voi. Come presenteresti Roma Europa Festival a chi non lo conosce? Beh, certamente è una manifestazione internazionale che spazia fra i generi, la danza, la musica, il teatro, le arti performative in generale, con una grande attenzione al digitale, ai nuovi linguaggi e alla contemporaneità. È un'occasione per vedere degli artisti internazionali di grandissima importanza, ma anche per approfondire i nuovi nomi e i linguaggi della scena italiana più all'avanguardia. C'è un filo conduttore quest'anno? Sicuramente il tentativo è quello di ridare forza al contatto, che è la parola chiave che è stata scelta per questa edizione particolare e che ha una duplice lettura, quindi riavvicinarsi con delicatezza, in sicurezza e con grande attenzione alla cura degli spettatori e degli artisti. In questo particolare contesto, in questa situazione, era imprescindibile partire da questo. Quali saranno i luoghi del festival? abbiamo continuativamente utilizzato lo spazio della Pelanda, il mattatoio testaccio, dove si seguiranno le diverse rassegne, e poi apriamo appunto all'Auditorium Parco della Musica in Cavea con Sasha Valls. Avremo una serie di progetti in diversi spazi, tra cui Villa Medici, il Teatro Vascello, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, dei progetti in collaborazione con il Teatro di Roma, sia al Teatro Argentina che al Teatro India. Come al solito, anche in questa situazione di particolare contingente, il Festival cerca di spaziare a 360 gradi sul territorio cittadino e di essere presente in tutta la città. Sarà una cadenza quotidiana? Praticamente sì, quest'anno chiaramente le limitazioni legate al Covid fanno un pochino concentrare gli eventi nel weekend, ma cercheremo di accompagnare per questi 3 mesi il pubblico con continuità. I riferimenti per la programmazione dove si possono trovare sul web? Il sito internet www.romeuropa.net per tutte le informazioni relative al programma e il calendario, e poi sono sempre disponibili i colleghi del box office per gli acquisti quest'anno rigorosamente online allo 06 4555 3050. Ci sono degli spettacoli che vi stanno particolarmente a cuore, che siete particolarmente contenti di ospitare? Beh, il programma è importantissimo, si è fatto uno sforzo collettivo veramente significativo per avere soprattutto gli artisti internazionali che con le limitazioni legate al Covid rischiavamo appunto di perdere, invece siamo riusciti a confermare, quindi cominciamo con Sasha Valls in una prima mondiale proprio all'Auditorium Parco della Musica. Poi c'è Milo Rau, ma ci sono anche tantissimi nomi nuovi della scena italiana che riteniamo insomma particolarmente importanti, come Fabiana Iacozzilli, Martina Basiluzzi, che pure sono al centro delle attenzioni, insomma, soprattutto della rassegna che curo e del programma che cerco di sviluppare per Roma Europa. Ecco, proprio a questo proposito, com'è stata la cura della scelta degli artisti e delle artiste? Sicuramente la situazione internazionale e tutti i problemi legati alle possibilità con il Covid ci hanno legato moltissimo quest'anno a un dialogo strettissimo con gli artisti, a capire le loro esigenze sceniche, a capire come adattare gli spettacoli, se adattarli o come pensarli quando erano ancora in via di debutto in funzione della normativa vigente, e questo ha creato un legame veramente molto importante fra tutte le curatrici, la direzione artistica, Fabrizio Grifasi, Monique Vaught che era presidente fino al 1° settembre, Guido Fabiani che è subentrato dopo, e tutti gli artisti, dove c'è stato veramente l'opportunità quest'anno di conoscere tutti i più piccoli dettagli delle creazioni e quindi di sentirci particolarmente partecipi dei progetti di ciascuno degli artisti programmati. Roma Europa Festival dal 18 settembre al 22 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Maura Teofili. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Il coautore e attore Ariele Vincenti sullo spettacolo Cose Popolari a Roma, Teatro De Servi, dal 24 settembre all'11 ottobre 2020. Ariele, ben trovato. Sì, ciao Federico, grazie per avermi ospitato in questa intervista, grazie mille. Allora, avevamo già ospitato sia te che questo lavoro al Radioteatro. Per chi non lo conoscesse, descrivicelo. Sì, questo è uno spettacolo che portiamo in giro da 3 anni e parla di una coppia che in poche parole occupa una casa popolare e poi si va a scontrare con tutta la burocrazia e personaggi loschi, insomma, che circondano purtroppo questo mondo dove circolano i soldi, insomma ci sono sempre personaggi loschi. E all'interno dello spettacolo c'è un altro personaggio che è Mario, che è il loro vicino di casa, un 60enne, un po' il matto del quartiere, no? Che però in realtà ci riserverà tante sorprese anche poetiche. E insieme a Mario c'è un altro personaggio che è Stefano, che è il fratello della mia fidanzata e che comunque in qualche modo ci aiuterà, insomma, in tutto e per tutto. Anche lui all'inizio è un po' restio nell'occupazione, perché poi la prima scena andiamo in lui a occupare di notte e cerchiamo di aprire la porta con una lastra, no? E poi invece lui appoggerà la nostra causa e piano piano sarà sempre di più dalla nostra. No, questo per dire il fatto della lastra, perché

siamo in questo primo viaggio nel Lazio, andiamo ad attraversare questi spazi che vanno, non so, dalla necropoli etrusca di Cerveteri alle rovine di Canale Monterano, dal borgo di Ostia Antica ai sotterranei che si snodano sotto Viterbo. Poi c'è Barbarano con il belvedere che si affaccia su tutta la vallata meravigliosa e la Rocca di Dolfo arroccata sul monte, per cui una serie di luoghi veramente particolari e unici che andiamo a valorizzare, che andiamo a riscoprire e raccontare attraverso la musica con concerti di artisti molto molto particolari. Iniziamo a Tolfa il 5 settembre con il concerto di Gianluca Secco e Antonio Arcieri, per cui un lavoro sulla voce, ma un teatro canzone molto particolare in cui Gianluca Secco appunto modula la voce e interpreta, comunque come faranno tutti quanti gli artisti invitati, interpreta lo spazio in cui si trova e Antonio Arcieri al pianoforte. La settimana successiva, sai, questi appuntamenti sono il sabato, tutti i sabati, dal 5 settembre fino al 10 ottobre. Poi abbiamo alla Necropoli di Cerveteri Diane Peters, che è un artista di livello internazionale che suona queste arpe stupende, un'arpa elettrica acustica e un'arpa celtica. Poi abbiamo un'altra arpista, perché abbiamo deciso di fare così un assaggio di concerti d'arpa in questa rassegna, Irene Betti al Belvedere di Barbarano Romano, con un approccio più pop, diciamo, all'arpa nel suo repertorio. Abbiamo il concerto dei Camera a Monterano Antica, il set del Marchese del Grillo, no? C'è quello spazio pazzesco che è il convento di San Bonaventura, quelle rovine, quei ruderi di convento dove al centro cresce un albero, e proprio in quello spazio andremo a fare il concerto dei Camera, che propongono musiche di colonne sonore. Quindi sonorizzazioni, musiche per teatro, una situazione molto ambient. Continuiamo con il concerto di Lorenzo Kruger, denopraino al Borgo di Ostia Antica. Lui con il suo pianoforte verticale, eclettico, assurdo, e insomma ci divertiremo, è proprio un concerto particolarmente appassionante e coinvolgente. E finiamo con Ivan Segreto nei sotterranei di Viterbo. Ivan Segreto piano solo, per cui chiudiamo con il cantautorato più bello. Tutti i concerti verranno trasmessi in streaming, perché abbiamo deciso, insomma, di ampliare questo lavoro di valorizzazione del territorio facendo conoscere quelle che sono le bellezze nascoste del Lazio, no? Sai, quest'anno si è parlato un sacco del turismo di prossimità, e quindi tutti a scoprire quelli che sono i luoghi magici o i luoghi segreti vicino casa. E noi diamo una mano in questo senso, nel senso che poi anche con la diretta streaming che faremo sul momento e con dei video in streaming integrali che manderemo nei giorni successivi, vogliamo proprio andare a far conoscere che cosa c'è vicino casa, dei posti belli che uno poi può anche tornare a visitare perché magari stanno a un'ora da Roma e vale veramente la pena. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? La rassegna The News Logi è organizzata dall'associazione Artmosfera con la direzione artistica di Scuderie Marte Live. Su Facebook c'è l'evento organizzato da Scuderie Marte Live e da Artmosfera, The News Logi, concerti alla scoperta di luoghi straordinari. Il sito è www.geniuslogi.it, lì potete prenotarvi per partecipare ai concerti, i posti sono super ridotti perché l'esperienza è particolare e quindi insomma vi consigliamo di prenotarvi, accesso gratuito. Non vi avevo raccontato che c'è tutto un programma di attività collaterali che ci porta a conoscere questi luoghi, per cui prima dei concerti ci sono visite guidate delle aree archeologiche, workshop per bambini, lezio sulla vita in epoca antica in quell'area, quindi insomma c'è proprio tutto un ricco programma di conoscenza del territorio. Genius Loci in provincia di Roma e Viterbo, dal 5 settembre al 10 ottobre 2020, un saluto e un ringraziamento alla curatrice del progetto Lune Magrini. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto. con Gianmaria Cervo, direttore artistico della 24esima edizione del Festival Internazionale di Teatro Quartieri dell'Arte a Viterbo dal 2 settembre al 5 novembre 2020. Gianmaria, ben trovato. Buongiorno, grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. È un festival che, nonostante l'emergenza Covid, prima di tutto c'è e ha anche salvaguardato le sue linee programmatiche, anche se poi inevitabilmente i bilanci interni delle drammaturgie che avevamo in cantiere ovviamente sono stati rivisti, alcuni eventi sono stati cancellati e sostituiti, ma sono molto lieto di poter dire che le linee programmatiche sono state mantenute e che il nucleo centrale degli eventi del festival è stato preservato e anzi, alcuni eventi hanno risposto in maniera eccezionale alla sfida posta dalla situazione Covid, per cui sono andati a finire in territori assolutamente inaspettati. Il festival quest'anno doveva essere incentrato sui Caravaggeschi, lo è, e potremmo dire che ci sono drammaturgie barocche a tema barocco, che poi però inevitabilmente finiscono in riflessioni sulla nostra contemporaneità, e drammaturgie barocche carnevalesche che invece affrontano a muso duro, direi, in maniera molto diretta la nostra società, la nostra contemporaneità. Devo dire che cambiando, facendo evolvere le drammaturgie, le abbiamo molto radicalizzate nel senso della transdisciplinarietà, per cui è diventato veramente fondamentale l'apporto, per esempio, di artisti visivi, di compositori, di storici dell'arte, di esperti, e abbiamo creato una serie di prodotti che sono degli ibridi tra la drammaturgia e l'esposizione, tra la drammaturgia e la performance artistica, e devo dire, ripeto, alcuni hanno dato dei risultati veramente eclatanti che certo non erano stati preventivati prima di tutta questa emergenza, di tutta questa crisi del Covid. In un anno in cui il trasporto della macchina di Santa Rosa, che per la comunità viterbese è la festa centrale, la festa inclusiva, che va anche al di là del significato religioso, nel senso che è una festa che ha anche ormai assunto tratti fortemente laici, una festa che si rivolge a tutta la comunità, noi abbiamo deciso in un anno in cui il trasporto non poteva avvenire di fare una installazione teatrale che invitasse lo spettatore, non avendo nessuna autorevolezza e nessuna autorità rispetto al trasporto contemporaneo della macchina, non organizzandolo noi, abbiamo deciso di fare una installazione teatrale che invitasse lo spettatore a immaginare, riimmaginare un trasporto di epoca barocca, cioè il trasporto del 1690, che è il primo rispetto al quale c'è una rappresentazione grafica, cioè un bozzetto della macchina. Ovviamente è impossibile fare filologia rispetto a un evento di questo genere, è un fake scientemente costruito, ma è un fake che serve a invitare lo spettatore a un atto immaginativo. C'è una collaborazione tra Francesco De Grandi, che è un pittore di spicco della scuola palermitana contemporanea, che tra l'altro trasforma uno spazio viterbese in una specie di oratorio serpottiano, del Serpotta. C'è una mia drammaturgia, mio tappeto sonoro, a cui hanno contribuito poi attori molto importanti e molto valenti del cinema e del teatro italiano, ne cito solo alcuni, insomma, ma ringrazio ovviamente tutti: Alessio Boni, Claudio Santamaria, Francesco Scianna, Massimiliano Bruno, Michele Andreozzi, Massimiliano Vado, ma insomma ce ne sono tantissimi. E all'interno di questo spazio serpottiano ci sono poi degli interventi performativi minimi, che sono ovviamente degli interventi performativi che sono assolutamente compatibili con la situazione dell'emergenza Covid. E poi, sempre a tema barocco, abbiamo questa performance che poi dà il battesimo a questo gruppo transdisciplinare, insomma, di artisti, che si chiama Anna Osso, insomma, spero si noti il palindromo, che fa una performance che si chiama I morti non muoiono, un amico di un mio amico e un mio amico, a partire dalla metà di settembre, a Bagnaia, che è il luogo dove Cecco del Caravaggio ha fatto l'unico affresco della sua vita, e l'idea è quella degli amici contemporanei di Cecco del Caravaggio che gli corrono in soccorso, visto che quell'affresco è largamente dimenticato e addirittura i custodi della Villa Lante, dove si trova, spesso ignoravano che fosse fatto da Cecco del Caravaggio. E poi, insomma, ci sono proprio letteralmente i fantasmi dei pittori del passato che invadono questi borghi della pittura per provocare, diciamo così, gli spettatori, i cittadini, quelli che abitano anche questi borghi. E queste sono le drammaturgie barocche a tema barocco, ce ne sono ovviamente anche altre, poi a queste corrispondono delle drammaturgie barocche a tema contemporaneo. C'è la ripresa di Free Time, lo spettacolo con la regia di Pierpaolo Sepe e un cast molto nutrito di attori che tra l'altro fa ruoli multipli, che sarà anche visto al Piccolo Teatro a Milano per il Festival Trame d'Autore e che torna da noi in una forma in streaming. E poi c'è, come sempre, tanta drammaturgia contemporanea. L'Asino di Ioni Esperalle, che è uno dei maggiori esponenti dell'ibsenismo contemporaneo, insomma è uno dei drammaturghi assimilabili, insomma, alla linea di Jon Fosse, un caro amico anche di Jon Fosse, e Gianluca Jumiento, che è un giovane regista italiano che però ha lavorato moltissimo negli ultimi anni con i grandi teatri nazionali norvegesi, fa una messa in scena all'aperto, ponendosi il problema di come fare una messa in scena in risposta all'emergenza Covid e anche come fare una messa in scena pienamente ecologica. Proprio durante l'emergenza Covid si è posto il problema della qualità dell'ambiente, no? E allora Gianluca, oltre a porsi il problema del cosiddetto famigerato distanziamento sociale, si è posto anche il problema ecologico. E poi sono tantissimi, insomma, i drammaturghi contemporanei che partecipano al programma. Cito Erdem Afşar, giovane drammaturgo turco che è stato in residenza Royal Court e che ha sviluppato questo testo Dark Pink a Royal Court, che noi proponiamo in prima mondiale, e poi tantissimi drammaturghi italiani e stranieri che come sempre contribuiscono al nostro programma. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? www.quartieridellarte.it, su Facebook la pagina Quartieri dell'Arte e a ufficio stampa Quartieri dell'Arte @gmail.com ci possono effettuare prenotazioni o chiedere ulteriori informazioni sugli spettacoli. Quartieri dell'Arte, 24esima edizione a Viterbo dal 2 settembre al 5 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianmaria Cervo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, un abbraccio. Grazie, grazie tantissime. Con Beppe Rosso, coautore e regista della serie teatrale Radio International, a Torino, San Pietro in Vincoli, zona teatro, dal 1 al 31 ottobre 2020. Beppe, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti? Sì, dunque questo è un esperimento che facciamo noi come Arte Teatro all'interno della stagione di Ferti Terreni Teatro, che è un insieme di tre teatri, lavoriamo da tre anni in rete, ed è un esperimento nato nel periodo del lockdown, abbiamo lavorato, e parla di una radio, ambientato tutto dentro uno studio radiofonico, che è una radio che sta per chiudere, ma contemporaneamente il paese all'esterno sta per cambiare. Durante le puntate mano a mano verranno chiuse le frontiere, il paese muta, ma muta anche la radio e il ruolo della radio. Una delle domande anche sul ruolo dell'informazione, fatto attraverso le vicende dei personaggi che sono i conduttori e i tecnici che sono della radio, è una storia tragica perché parla appunto di un paese che sta mutando, ma anche comica perché i rapporti tra i personaggi, le varie vicende, ci sono molto curiose, insomma. È una storia avvenuta in lockdown perché avevamo deciso di proseguire le prove, lo spettacolo doveva andare ad aprile e siccome non si poteva provare avevamo Zoom a disposizione, essendo Zoom non così lontano dal mezzo radiofonico, abbiamo cominciato a provare tutti i giorni autori, tecnici e attori, e ne è venuto fuori un materiale così ampio, così grande, che a noi piaceva molto, speriamo piaccia anche al pubblico, che abbiamo deciso di organizzarla in 5 puntate. Ecco. Com'è nata l'idea iniziale? È un progetto che nasce all'interno di un progetto più ampio Interreg, cioè tra Italia e Francia, si chiama Migration, che parla delle migrazioni, e logicamente noi abbiamo preso le attuali migrazioni di passaggio sul confine tra Italia e Francia, e l'idea era di farlo attraverso una radio, perché è un mezzo che ci affascina, è più antico se vogliamo come metodo di comunicazione, ma è ancora molto vivo e può dire ancora molte cose. Quindi questo ibridare il teatro con la radio ci affascinava molto. Siamo partiti di lì e abbiamo costruito il testo. Com'è strutturata ogni singola storia? Ogni singola storia è una storia a sé, quindi non è detto che uno debba vedere tutte le 5 puntate, può vederne una perché ognuna è organizzata, come sono le serie poi alla fine. In ognuna c'è una vicenda che si apre e si chiude, che è conseguenza di quanto è avvenuto prima, ma si apre e si chiude. Questo esperimento fatto per vedere se anche il teatro, non è la prima volta che si fa, ma se anche il teatro può reggere la serialità. Noi crediamo di sì e speriamo che il pubblico ci segua. I vari argomenti di attualità toccati, con quale approccio li avete affrontati? Beh, innanzitutto, come dicevo prima, è il ruolo dell'informazione. Il ruolo dell'informazione in questo momento difficile, in cui vengono messi sul tavolo, logicamente, i temi che ci sono attualmente, che sono il problema dell'immigrazione, il problema dei nazionalismi, dell'odio crescente, il problema del difficile rapporto con l'Europa. Questi sono i temi di fondo su cui si gira. C'è un tema fondamentale su cui la radio punta molto, che è la scomparsa di una bambina profuga siriana, comparsa tra le montagne tra l'Italia e la Francia, si scoprirà poi che vuole raggiungere il suo padre che è in Francia. Ha una storia più complessa perché lei ha una bambola dentro, ci sono delle chiavette di messaggi segreti che deve portare al padre perché fa parte dei combattenti per la Siria libera. Questo è un intrigo un po' da spy story, ma il tutto è declinato attraverso i conduttori, quindi attraverso l'umore dei conduttori e vecchie vicende, non sopite mai raccontate tra loro, che questa crisi, c'è anche una crisi della radio che è in network con altre radio italiane che sta per chiudere, quindi questo scatena un po' le vicende tra i vari conduttori. È una commedia, ma che mette sul campo cose molto a volte tragiche e a volte importanti. Come saranno disseminate le puntate in questo mese? Sono 5 settimane nel mese di ottobre, a partire dal primo fino alla fine, e noi ogni settimana faremo una puntata replicata 3 volte, e quindi ogni settimana ha una puntata alle 9 di sera, giovedì, venerdì e sabato ci sono queste puntate. Io sto lavorando alacremente perché tutto sono circa 7 ore e mezzo di spettacolo. Radio International a Torino, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, dal 1 al 31 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al coautore e regista di questa serie teatrale, Beppe Rosso. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Arrivederci, arrivederci a tutti, per chi vorrà vederlo, arrivederci dal vivo. In bocca al lupo, anche a voi. Con l'archeologo Andrea Angelucci per presentare la serie TV Art Rider su Rai 5 in 6 puntate da venerdì 11 settembre 2020. Andrea, ben trovato. Eccomi, ciao, grazie per avermi ospitato. Come parleresti di questo lavoro? Ma questo è, ecco, un lavoro che ha come obiettivo quello di portare alla luce, come fa di solito un archeologo, ma chiaramente con l'attenzione mediatica, un patrimonio storico, artistico, archeologico poco conosciuto e poco anche valutato. Ecco, quindi l'obiettivo centrale di tutta la questione è questa, di dare attenzione a questo patrimonio che chiede un po' aiuto, come se dice, ehi ragazzi, ci sono anch'io. Com'è partito tutto? Dalla mia attitudine proprio di fare

Art Rider su Rai 5. Un saluto e un ringraziamento all'archeologo Andrea Angelucci. Sarai tu a condurre, giusto? Esattamente, sono io il conduttore, esattamente. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie mille. Con Antonello Silverini per parlare della sua mostra rodariana La fantasia non è un lupo cattivo, al Castello Normanno Svevo a Morano Calabro dal 2 al 21 ottobre e poi a Castello Aragonese di Castrovillari dal 23 ottobre al 22 novembre 2020. Antonello, ben trovato. Ben trovato, Federico. Raccontaci di questa mostra. Un'occasione abbastanza così inattesa, una sorpresa per me, perché comunque io non pensavo di fare una mostra su rodari, una mostra comunque dedicata in qualche modo all'illustrazione per l'infanzia, che è comunque un genere di illustrazione che io non frequento per vari motivi. La proposta mi è arrivata dall'associazione Aprustum nella persona di Francesco Gallo, che comunque sotto la supervisione ideale del professor Sossi, che è scomparso qualche anno fa, che è stato un importantissimo storico e professore di letteratura per ragazzi, che in qualche modo mi onorava della sua amicizia e attenzione. Francesco e l'associazione mi hanno proposto di fare questa mostra in Calabria dedicata a Rodari, e per me è stata anche un'occasione per avvicinarmi a uno scrittore che, nonostante sia famosissimo e del quale sicuramente già conoscevo qualcosa, ho avuto l'occasione di poter approfondire una conoscenza che è stata, come quasi sempre quando si legge un autore importante, una scoperta. Tecnicamente che tipo di illustrazioni sono? Ripeto, non essendo un illustratore prettamente per bambini, anche se poi non ci sono categorie o taglie come le misure delle scartine, non mi sono mai sentito un illustratore per l'infanzia, però quello che volevo fare in questa occasione era quello di raccontare e disegnare il mondo rodariano così come io da bambino avrei voluto vederlo disegnato, ecco. Si tratta di tavole? Sì, sono delle tavole che ho realizzato in digitale, appositamente su Rodari, insomma sono realizzate tutte quante in digitale, quindi sono delle stampe di grande dimensione. I soggetti che ho scelto sono sparsi, non c'è nemmeno un ordine, ho cominciato a leggere in maniera disordinata mi sono innamorato e appassionato di alcune filastrocche o favole e racconti, e quindi non ho fatto una selezione, come dire, molto pensata. È stato molto, molto istintivo la scelta dei soggetti che ho poi rappresentato. Quante sono le stampe? Sono 8 soggetti di grande dimensione, poi ci sono altri lavori che io ho fatto tempo e che andranno a completare la mostra, quindi ci sono delle tavole, delle tele di 1 metro per 1 metro, ci sono dei lavori su carta che avevo fatto in passato, ci sono altri lavori in digitale, quindi c'è un po' di tutto, dalle opere su tela a quelle su carta alle opere in digitale. In totale, in tutta parte della mostra saranno intorno ai 25-30 pezzi. Hai fatto riferimento a qualche storia in particolare o appunto in ordine sparso? In ordine sparso sicuramente, ci sono delle storie, dei personaggi che sono sicuramente molto famosi come Cipollino e il Cavalier Pomodoro, quindi ci sono alcuni personaggi di quelli famosissimi, magari non ci sono La Torta in Cielo, altre cose più famose, ma come ti ripeto, ho trovato delle filastrocche, delle storie che mi colpivano particolarmente, anche quelle un po' più malinconiche, anche quelle in cui magari Rodari in qualche modo metteva dentro la favola, il racconto per bambini, anche un messaggio un po' più sociale e, se vogliamo, anche politico, insomma. Addentrandoti nella lettura, che impressione ti ha fatto l'autore? L'impressione è quella di un autore di grandissima profondità e di grandissima etica. Io sono sempre stato abbastanza sensibile al discorso dell'etica, e uno come Rodari è assolutamente in linea e dentro questo pensiero, per cui me lo sono sentito sicuramente molto vicino, ecco, e come pensiero sociale, ti ripeto, anche politico e anche, ma anche come poetica, come leggerezza. Il fatto stesso, ecco, di non essere, nonostante avesse chiaramente un approccio letterario pedagogico in quello che faceva, ma non necessariamente quei tromboni pedagoghi che movimentano e anzi cementano il mondo dell'infanzia. Questo sottotitolo? appunto una frase di Rodari che avevo trovato e che mi aveva colpito molto, perché il pensiero che la fantasia, che è anche un lupo cattivo, il lupo cattivo è comunque un personaggio della fantasia, ma la fantasia stessa non è il lupo cattivo che deve spaventare, non deve spaventare nessuno, e non ha spaventato me, che alla mia età mi sono lasciato trascinare da questa avventura onirica e in qualche modo bambinesca. Le stampe si combinano con le mura di due castelli? Sì, ho ricevuto le immagini precedentemente e quindi mi sono fatto un'idea dello spazio nel quale la mostra avrebbe vissuto. Da quello che ho potuto vedere sono delle cornici molto belle e molto, molto suggestive, quindi mi fa molto piacere fare una mostra dentro, ecco, delle location di questo tipo, e anche mi fa molto piacere fare una mostra in Calabria. Ecco, mi piace l'idea di fare delle mostre anche al sud, che insomma è un evento che non capita molto spesso, ecco. C'è un sito internet degli spazi web di riferimento per saperne di più? Sì, c'è sicuramente il sito dell'associazione Aprustum in Calabria, c'è il sito di B17 che ha collaborato all'allestimento e anche alla diffusione della notizia della mostra, sono facilmente reperibili sul web. La mostra rodariana, La fantasia non è un lupo cattivo, a Castello Normanno Svevo a Morano Calabro dal 2 al 21 ottobre e al Castello Aragonese di Castrovillari dal 23 ottobre al 22 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'artista Antonello Silverini. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, un abbraccio a te e grazie mille. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.